è bellino, già è bellino questo. Sì. E quello li sto usando perché il 3009 mi si è rotto, ha fatto a rivendichissimo, andò a Favidà e mi innescava, ma c'è un innesco forte e non uscivo neanche di radio il 3009. Sì, no, già è così, sì. Purtroppo è da mettere a posto, chi c'è il logo? A chi su 3009 va 40 canari Zulu e omologato e 4 watt va, mi dispiace cazzo di Zulu, a chi si è omologato? Invece questo no, questo c'ha tutto, c'ha assolutamente. Eccoci, non è bellino, c'ha un sacco di cosa, ha voglia. Questo qui è anche modificato, se no non ci deve manco venire in 27, perché è fatto per tutta la banda dei 28. Questo va bene in quelle frequenze là. Infatti, questo qui, quando tu lo fai andare in 27, arriva fino a 28 o 305, non di più. Capito? C'è un casotto di canali. Possiamo vedere la sua roulotte, diventi in quella... Col computer si può fare a sintonia continua dalla 27 alla 28. A pochissimi metri da dove è avvenuta la segnalazione. Però ci vuole il programma, il cavo. Il cavo già ce l'abbiamo e anche il programma, volendolo fare. Invece che bande da 40, fa bande da 60 canali. Sì, ma non conviene toccarlo, Natalino, non conviene. Se no da voi, toccandolo direttamente con il computer, diventa un macello. Ah, lo lascio così, va bene per la 27, allora, intanto io lo uso, cosa me ne sbaglio? Al momento questo corpo non è... Basta che vada bene per qua, va l'Eco, il Roger Bippi, c'è la potenza regolabile. Io adesso sto uscendo con 2 watt, sto uscendo, però da 15 watt in AM, 40 in FM e 30 in SSB, non andrà ne bene. Aspetta, ha voglia di andare bene, ha voglia se va bene, cioè, più di così non può andare. Guarda, adesso sono 2 watt, adesso te lo aumento a manetta e così ti rendi conto, guarda il segnale, guarda, adesso è a manetta, ma si nota la differenza. Aspetta se si nota, ma vai a fondo scala. Vai e torna 2 watt, allora io con 2 watt parlo benissimo. Tu già mi arrivi a metà, 9:20 mi arrivi. Se vuole che da manera mi arrivi a fondo scala, che saranno 9:60. Figurati, allora devo dire funziona. In SSB cazzo, una telefonata era. Allora devo dire una telefonata a un Guido di Firenze. Sì, no, è già così. È così, sì. E ha voglia. Cazzo, se c'è da andare lì ci vai tranquillo. Infatti. Mi metto a 27.555. Chiamo lì. Dopo se mi dice spostarmi, mi sposto e parlo come ho fatto ieri. Anche canali alfa c'ha, Natali. Sì, c'ha anche più 10. C'ha tutto, mi provo ad andare sull'11 alfa. No, non ce l'ho io quello, di questo apparato qua non ce l'ho. Ah, non ce l'hai, vabbè. Comunque c'ha tutto. C'ha l'Eco, cosa non va, cazzo, il Roger Bippi, io ne rubava chi non mi piace, è escludibile qua, no, aspetta, te lo puoi regolare, io l'ho fatto corto corto come quello del Colt, aspetta un attimo. Ma il cappuccino me lo fa? Anche il caffè, ciao briciola! su capitano, su su ragazzuni, buonasera a tutti. Ah, ma no, è mica c'è il tuo vicino di casa, amico. E chi c'è? Ce ne sono tanti qua. Nonna, io non giuro, è vicino vicino. Ah, e Tony, tu sì, come mi capisci? Quando sento la tua voce mi fai proprio la respirazione del petto. Me ne hai dato Rugani, me ne hai dato, ma c'è un poco. Che parose, a chi? A chi me ne hai dato, era Drummedo me ne hai dato. Addirittura, cazzo, che lo faccio anche una certa lurito. Peggio, peggio sì. Poi c'ha due filtri, c'ha l'NB a NL e poi c'ha l'iCut che è un altro filtro. È abbastanza completo questo qui. Sì, già è così. ANL ce l'ho anche io. Sta l'NB ANL più c'ha l'iCut che è un altro filtro. Sì, sì, già è così. Cosa? Piacerà? Sì, c'ha anche per l'ascolta. Sì, bello così. Oh, beh, 300 li passa. Costa 163 euro. L'ho pagato con le spese 172. Io ne avevo un altro uguale a questo. Ne avevo. L'avevo venduto, però le mani mi dovevo tagliare. Dimmi una cosa, l'MP4 va bene lì? E non sto usando quello, adesso lo sto usando a due l'MP4, guardami, vai a mi dai, sto usando l'MP4. Però non si sente la amplificazione. Come? L'amplificazione non si sente. Non si sente? Si amplifica e cosa male il tuo microfono? È normale la voce. Cioè, non è amplificata, prova a aumentarlo del tutto. Guarda, adesso è a 10, guardalo. Insomma, così così è. E tutti mi dicono che amplifica un bel questo microfono. Infatti lo metto a 2, per così è a 2, per non sentirsi molto la televisione. Gli ho messo anche una cuffia dentro, per di quelle antisoffio. Per uscire bene di radio e non amplificare più di tanto, da. Perché amplifica troppo. Ha già compreso. Ho capito, è così, infatti. Adesso sono lontano mi dal microfono. Io sto parlando lo stesso, sto parlando da 50 centimetri. Vabbè, c'è anche il Tanner più 3. Se ti posso attacchi funziona buruchissu. I noghi. Io a questo gli ho dovuto fare uno spezzone, gli ho dovuto fare perché questo è a 6 piedini. No, questo è a 4, però gli ho fatto lo spezzone anche io perché c'ha il cavo troppo corto, quello MB più 4. E allora per arrivare a questo apparato gli ho fatto lo spezzone. E va bene così allora, già va benissimo. Infatti è così. No, già è bellino, sì. Va bene. Io ne avevo un altro che era anche tirato, perché l'avevo preso a seconda mano da un amico, no? E quello l'aveva tirato. Cazzo, ma tanto bumpava. Deve entrare dentro, aprirlo, entrare dentro e girare piano piano. E te lo porta a 20 watt e te lo porta. No, no. Lo lascio normale, lo sai che funziona bene dell'altro. Questo infatti è a 15 ci fate questo? L'hanno portato. No, questo ce li ha di suo. In AM. In FM addirittura ne dà 40. E in CCB 30. Però è così dalla fabbrica, capito? E la Russi. Sì, e fai bene. E fai bene se va su Russi. E allora, se non sforzano, non si sa mai. Capito? Invece lo lascio così. L'importante è che mi sentano. A voglia, cazzo, se ti intendi, da voi ad intendere ugualmente, perché arrivi in tutti i posti, poi nella zona che sei tu, sei una zona buona. Sì, non ti gridi assai, no, zona buona. Vivi, e questo è importantissimo. C'ho il problema dell'antenna che è troppo bassa io, se no dovrei uscire un bel più forte. E io sto aspettando che faccia buono per salire, prima a piazzare la staffa e poi a addrizzarla l'antenna e addrizzare il tutto e mettere tutto il resto. Ho capito. La gente che si stabilizza già è sul tempo, vedi che non è stabile, è oggi temporale. Ma che ci metta a posto, anche se no mi sono cominciando a buriarmi. E ha detto che si stabilizza già lo tempo, che forse a neve di lì, e così puoi alzare e fare ciò che devi fare. E fatti così, anche se no mi comincio a girarmi le cattoli. Sì, lo so. Io purtroppo non ci posso neanche salire sul tetto, se no l'avrei messa più in alto, più tutto, avrei potuto piazzare più antenne, e invece non puoi fare nulla qua. Vabbè, lasciamo perdere, sorvoliamo. Manuele, guardate che ci deve essere il scido. Ega, Manuele, di sicuro gente, che andiamo bene. Perché è entrato tutto prepotente adesso, boh. Ma che vuoi che ti dica? C'era anche Gianni qua, boh. Non si sente più nessuno. Chi è? Non risponde nessuno. Infatti tutti inabissati. Gianni forse doveva portare il cane, forse per quello che non sa parlare. Infatti doveva portare il cane e quando rientrava già tornava a entrare. Attento qua, capa capa, ci ascolti Gabbio dalla città di Palermo, capa capo. Oh signor Gianni, ma in macchina oggi? Ah, mi ascolti, cambio. Già ti ascolto. Ebbè Natalia. Ebbè Franco. Però io almeno lo dico che sono a Palermo, no che entro e dico che sono a Cagliari. Cautore, buonasera. Buonasera pure a te. Da giubilato Baggiani, da giubilato. Guarda che io sono in macchina, sono qua alla stazione. E a bevi andarci a fa. No, sto andando a prendere la sorella della mia compagna, capito? Che arriva oggi e parte il 5 col treno, però, perché io non ci scendo di nuovo a Sant'Antio. E fai bene, con tutta questa carriera vera che fai. Sì, ma non se ne va vita nemmeno, per carità. Lì più avendo sta con la parte. Alla stazione sta più vicinando qua. A poca roba, dai. Speriamo che domani non piova. Chissà. Faccia che bella. Tutti qua. Capo, ti ascolto, Natali. Tutto leccato sono. Ora mi senti tu. Siete in due. Vicinai là, ecco. Attenzione Tony, ascolti questa piccola modulazione dalla città di Sassari che chiama Brico. Andiamo via, andiamo. E comunque Natali, questo apparecchio va bene, dai, a parte gli scherzi, rende bene. E anche questo, di virus, fra, come te ci apparecchia? Una bombetta, Ma non cupieggia, no? Che va bene, è solo per la macchina, per caso che va bene. E macchina va giù l'apparecchio di la mutua, pensate un po'. Andà bene, Meda. Mi devo buscare un lignarone per uscire bene in banda laterale, gatta. Da una settimana che... Che dicono che non mi sentono. Vieni lì, lascia per lì, Natali. Che la corrente è cara. E mai non avevo credito. Devi fare un mutuo, no, per pagare la luce. Sì, ma io lo uso solo quando vado in SSB, capito? Bello quello che apre poi in macchina, in linea, cazzo, quello già era bello, vaffanculo, a me che l'ho adatta, va roba, cazzo. Ma sai che apparecchio avevo sotto il sedile, sotto? Questo l'hai, e tu l'hai dato. Sì, ma deve essere che ti pesava molto in macchina, e per quello l'hai dato. No, a chi mi sia da dare tu? Il 5,50 ci avevo. E per noi la mise di Zendi. Quello ce l'avevo anch'io, ce l'avevo. E l'ho messo da una parte del coso, ma me ne hanno furato. A me me ne hanno furato un Tokai 5024 dalla macchina, nuovo nuovo, che me l'aveva regalato mio fratello, cazzo. Quello già mi è dispiaciuto. Io mi ho dimenticato, la macchina aperta, mi ho dimenticato. Ma chi se hai mutuato tutto canto, a me da 286 che me ne hanno invigiato. Poi se voglio tassi a Begaera, che mi ha fatto un sacco. Che c'è andato a Andiera Edo, se non me ne vuoi cavare dalle mani, ho visto a freggio. Ebbene, ho tirato il rado. No, che si era venduto. Da giorno, quindi siete di tempo, va a miro. Ti ha mirato il rado, Gima, tutto fasciato. Che ma io pure ce l'avevo sotto il sedile perché non era troppo grande, no, e dove lo mettevi? Ah, sai con cosa uscivo? Uscivo con quello lì, con un Intec. L'Intec 680 che andava in 23, no, faceva 34 canali faceva. Uscivo con quello lì. Ma sai che ne ho uno uguale io. E lo metto in macchina quello lì. Ed esci benissimo. E dici a volte mi riuscia. Me ne caricava la batteria pure, me ne caricava. No, io non ne ho lineare adesso in macchina. Mi metto solo quell'Intec lì. Però esce bene anche senza lineare. Mi già lo sa Franco. Io perché guardate, mi pare. Cazzo. E ce l'ho di lusso quello lì, fermo lì, gommone, e già ci vede. No, io no, non ne metto più in macchina. Tanto pagando 10 euro manzano a luna a prendere i miei nipoti, cosa mi pongo? Romanacchino mi pongo. Non è andato più, mi ne ho andato una mezz'oretta, un'oretta in casa. E già lo so, se non la prendi molto la macchina, io quando la prendo qualche volta già me lo metto il baracchino in macchina, quando la prendo, ma qualche volta esco in macchina, capito? A chi mi rompe i cazzo di andare più a onde la macchina, al bosteggio, la cosa mi fa di una ridanca, una volta ai rubrinelli, gruppi di sinistro, a chi non riesce a muovere l'anca, io l'unica cosa che ce lo dovrei adoperare per andare a Ubbia o a Alghero quando vado a prendere mia figlia, basta, devo metterlo, però no, ma me ne dà zegoli di pulirli in macchina. Ehi, quando la macchina non la usi spesso, no, non te ne viene gana di pulirlo. E un bel di voi esci e non ne pongo nemmeno. Eppure un naggio, 4 antenne, naggio, per metterle in macchina. Ah, non è dato manco una. sta giù una da 2 metri, una da 1,5 metri, una da 1 metro e l'altra da 1,10 metri. Ah, io ne ho 2. C'ho quella della 27 più c'ho un'antenna multibanda addirittura e non l'ho mai usata, con la scusa che mi volevo prendere il patentino. C'ho anche quella, però è uia, non ci vado più, basta, finisci. Infatti non c'ho più nulla qua, c'ho solo questo baracchino e buco. No, io devo scendere anche a parlare, devo trovarmi con Antonio, mi devo trovare, si riesce a ciappallo. Ah, c'è il telefono e c'ho fammi cunello. Chi è a fa cosa? No, a chi l'ha aiutato io, dell'ogogio, tessere tutto quanto. Oh, arrivato a un certo punto non mi sono arrivate più le riviste. Non ho capito, ma manco a me stanno arrivando. Si sono trasferiti a Porto Torres, che io sappia. Non ci sono più lì. Ah, ma l'ho chiesto a Mario, Mario mi ha detto, dice che a Porto Torres non c'è nulla, che lui abita a Porto Torres, e a Porto Torres mi ha detto che non c'è nulla. E cosa ce l'ha sempre là, Itili ce l'ha. Ma ne manco a Sassari e più da vedere, così è. Fanno più nulla a Sassari, non sta facendo più nulla. Ho capito. Riuscirete, così vediamo. Se si può fare, ci fa, è buono, se no ci rabbia nel grande paese del vicolato. Ah, Arusai, cosa ti dico? Sto bene qua. Non c'è problema. I comuni colpiti. Non posso parlare di là, parlo qua. Ah, anche io sto parlando qua. La faccio solo ascolto e buco. Se l'avessero fatto online l'avrei fatto attorno all'esame, ma a fare a Sinchivi, a Cagliari, sono 50 domande, lo compito lo da Sineca Boni Edi, ma cosa hanno quei buoni nel nome, nel cognome, nel compito, quindi possono fare quello che vogliono. Io ma fammi truffare, non vado. Un attimino, un attimo, c'è il telefono. Sì, Franco, ci sei ancora? Ma rientrata a Roma perché lì oggi non entra nessuno. Natali, ti devo lasciare un pochettino, già come rientro ti chiamo. E già sono qui, dai, ciao. Camarada, la perché nessuno ora si è dovuto assentare, ci sono io, so non è entrato più nessuno e cosa vuoi ti dichi allora? I nipotini allora faccio la prendere la scena di Lucia faccio dal metro. C'è la polizia fuori? Non ho capito. E mi ha fermato la polizia. E cosa vogliamo? Ma adesso mi dovete avere quello che è la pareccia del mare, trovate un baracchino. Vi ho fatto vedere quel foglio, guardate, me l'avete andato. Andate tutto occhio. No, me l'ha spiegato, la polizia a portare. Ma l'ha spiegato che la concessione non ce ne vuole più, capito? Sì, ma te guarda, io me l'ha detto giusto perché è viaggio, cioè, per farmi comprare. No, tu non va bene, sta a posto. Ho trovato l'antenna, tutto quanto. Ha trovato il maracchino questa antenna. Va. Perché quando ti ferma, ma non è che siamo per le baracchine, ti ferma la tua antenna, capito? Sì, a chi vede l'antenna? Salire su, capite cosa cante, che frequenza è? Vabbè, io non vedo la tariffa, se non sì, infatti. Cavagava, ma non è in due. Uno ferma e l'altro scrive. Voi, andiamo bene, andiamo. E quindi tu hai fatto quella retina, sai? Vabbè. Infatti immagine di Tugane, se tu riesci. Vuole uscire? Prova a uscire perché è contenta, c'è già giù che l'hanno chiamata e lui voleva uscire, capito? Beh, magari deve andare a fare bisogni, capito? Perché deve, magari deve fare cosa, quindi ti avvisa. No, è già uscito, l'ha già puttato. Ora, dicevo che siamo proprio vicini. Ascolta, se ce la faccio mi avvicino domani mattina per quella cosa, per quella guarnizione. Andrà bene mela. Perché ho portato sul mastice che ce l'ha in macchina, capito? Ma non me l'ha ricordato. Così si mette il mastice e è tutto il soffrire. Yes, sir. Che tutto sotto controllo qua. Oh, comunque ti posso dire, chi di Sant'Enna aveva più di due stazionari, Ma questi ragazzi volontari, secondo me è partita la bobina, c'è qualche cosa che non va, mi pare strano, Vabbè, te lo dico io, non è problema di bobina Natalino, perché se tu esci con 5 watt non ne hai stazionaria, però automaticamente cosa succede? Che se tu gli regoli e gli dai più potenza, chiaramente quell'antenna non è piena di watt, perché c'ha un filo talmente sottile, neanche 1,5 è quel filo, pensa tu, se tu gli dai watt come fai a... che vada bene, è chiaro che ti crea la stazionaria con l'antenna, quello che bisogna appena smontare e ritagli il filo più grosso della carica, capito il problema? Quelli vedrai che va bene, noi ho fatto una cosa nella cuda di terra, ce la mette il culo. A chi l'ha pure un Marcolino che si antenna, però non la sta usando. E gli sembra strano che si aveva. Mi Franco mi ha detto che va a stazionare un bisantenna. A chi non te ne va? Gli ho spiegato la situazione, Fru. Allora, la situazione è questa antenna, se tu la metti a 5 watt, stazionaria non è, ma che ce la metti a 8 watt. Se tu gli dai 10 watt di uscita che va a erogare sull'antenna, ti crea stazionaria e se ne dovete che la bobina, tu di quel tanto di watt non gli puoi dare. Scusa, è uscito un problema, c'è poco, la logica è quella, perché la bobina fa schifo, io l'ho visto, c'è un filo talmente sottile, come fai tu a fare un'antenna con un filo uscito? Costano poco e non valgono a niente. E cappa, gli ha portato la medicina per il cane, perché se ne dove l'hanno operato, no? E tu ringhendici magari con l'udente ti ha tirato un pezzo di gallo, ma la giusti. E mi tocca a me di gallo. Ma chiudiglielo con la calza, Natalì, mettigli l'antibiotico oppure l'euromicina, c'è cioè di infezione. La connettivina gli metto, gli sto mettendo. Gli ho messo anche quello che mettono per le operazioni, a me non me ne mettevano di quel coso, di quella connettivina. Mi mettevano quell'affare all'annamamento mentre diciamo, chi è arancione ho capito Natali, ti stavo dicendo Natali, domani mattina lo sarei alla Fusaro che devo prendere uno di quegli spinotti del tempo del 180 del microfono, perché me ne servono due di quegli spinotti, perché ho recuperato il filo a sperare quello buono e siccome me lo voglio fare, perché io non c'ero più l'originale, non so che fine ha fatto, e quindi ne voglio fare uno così, capito? E io la vivo e non mangio più di questi spinotti a 8, non ne ho più, se no te l'avrei dato io, ce l'avevo, ma io uno ce l'ho, capito, uno ce l'ho, me lo devo prendere uno solo per farmi quella spezzone dal microfono alla cosa, l'apparecchio, in modo che posso portarlo più lontano il microfono se voglio parlare, capito? Perché il computer ce l'ho messo da una parte, però se devo fare roba al computer è un casino. E infatti, si conviene vale rubire un uovo. In questa terra, dove hai iniziato nelle valere, tanto non devi rispettare niente lì, perché pin-to-pin. Non è un problema, ma al limite... perché quello che ho fatto troppo corto, capito? L'ho fatto da 50 centimetri, non me ne va più lungo va a Napoli. Ti l'ha già detto che può più lungo. Se tu vuoi spostare il microfono, come ce l'ho io lo devi fare. Io l'ho giocato lungo in modo. Quello che ha guardato il sito ma non ce n'è. Capito. Purtroppo è così. Perché da me hai visto dove c'era l'apparecchio? Il cavo era troppo corto, quello delle mie più 4. E quindi l'ha giocato lo spezzone lungo, ormai posso pulirlo di voglio. Allora come io c'era la spezzone delle mie più 4. Capito, già pronto. Però io me lo voglio fare come quello che c'era di origine, capito? Se no ho buscato il filo della Kenguru, di quello buono, lo ammazzo. E praticamente a molla, che lo posso allungare, ma quello è filo a vero, non filo di quello che mettono, è tutto gommoso, di lusso. E poi il filo interno è bello grosso, capito? E quindi non si brucia come questo, o si interrompe. Perché quei cavi sono talmente sottili che quando avrai tempo, quello che parte è sempre il rosso comunque, praticamente quello che porta l'alimentazione dall'apparecchio al microfono. Sì, evidentemente sì. Se lo fai quello originale poi non ne usi, molto ci vuole. Per le vicine, per tutte le persone ancora sfollate che hanno perso. E te lo tieni di così di riserva. Tanto è pin to pin. Capito? Tu vai così e non hai bisogno di controllare nulla. Siamo sempre. Ma già lo so, non è un problema, fa le voce come tutti, solo che mi devo pigliare. Mi ha fatto un altro spinato, perché un altro spinato del 70? Avevo fatto una prolunga, praticamente potevo usare anche le mie più 4, o viceversa, il carne più 3, capito? Posso adattare anche l'altro microfono, la tavola. Sì, lo so, come quello che ho io, che potevo usare le mie più 4, però anche io quello stesso. Quello lì ce l'ho io, ma io non lo uso intanto quello. Lo lascio da lì, se no lo lascio stare, mi fa peccato romperlo, eh. No, non lo rompere, piglia di lo spinotto e ti non vai nuovo, Guido. Guido spiralato, compreso. Però manco vai l'originale, dai, di Musi. Ma infatti quello voglio fare, perché quello lo voglio lasciare. Compro altri due spinotti, tanto mi fanno una cazzata tutto quello nel barico. Epa. Oh signore benedetto. Allora so cosa là fusola, che su Busano non va più nulla a Natalì. Qualunque cosa che richiedi lui non c'ha più niente, è zero che porto zero quel negozio. Così fa dire a venire la GBC, chissà, rabbuno sull'altro visto. Utilizzare un televisore? Sì, continua così, deve chiudere. Ma parliamo di GBC, anche GBC, quando entri c'è un casino che la metà basta, non si capisce nulla. Sì, già lo so, e poi caro che sangue, fare una farmacia. Ma caro Berommi, ma un bel, non poco, no, un bel, capito. E vabbè. Sono il vero e Fusaro, poi che altro c'è, non c'è altro nessuno. Sono in sassa, lei da me. La saputa, ma fammi arrivare una decina di BL, la giù di bigliata pura, chi no, chi non fa, se ne manca a comprare BL. Ma se non servono quei BL di Fusaro, non ho capito. Allora io ne ho 5, tutte e 5 difettosi. La ghiera, se tu vai a abitare, non abita. In certe radio abita, in certe radio non abita. Sono delle BL schifose veramente qua. Se le fanno pagare un bel soldo, non servono a niente quei BL. Io ne ho ordinato una decina di quelli gialli, capito? L'Alfanox, li conosci? Sì, quelli che magari li avessi trovati quelli. Una decina me li avrei presi. Che quelli sono signor PL, le leggi devi dare. Comunque un amore chi sono andato a fare il ricchito il 10 giugno o non sa si macchia di te gli stessi mi dice di luce centrale ma dimmi tu capire le cose è centrale infatti quello è anche io non ho uscito al centrale di qui ma io ho questi quelli gialli brutti sì, me la metto quando ripigliavo da Fusaro in bustine da uno erano e costavano un bel di soldi quelli Amplenor che pigliavo io, quelli sì che erano belli. Ecco, se vuoi già la fatta l'ho pagato a parte. Ma gira sta campagna per sì, ne è rimasto qualcuno di CBL attaccato a riga di antenne. Sì, sono rimasto, allora ne hanno fatto uno, mi pare che c'era il PL, mi pare che ci sono due o tre lì, ce ne avete toccati c'erano. E pure bruvo, vi dissi la gara, qui si erano tutti gli Ampene. Ma c'era anche il cavo, il 2-13, no? Sì, di tutto vi sarà, cosa vuoi che ti dica? Vira pure l'antenna multibanda, piazzata, anch'io. L'X300, il trombone, cazzo insomma. Io non ho toccato nulla, se non le hanno buttate giù, non lo so. Vabbè, la pari, non ci posso arrivare a smontarle con le antenne. Qua non voglio avere problemi con quelle persone, perché con quello che abitava a Porto Torre, per poco siamo arrivati alle mani, c'è la 50 qua, che te lo può dire. Non le voglio più vedere. Vabbè, tocca a te, mi allora di salirci. E se no tocca a parlare, io mi dico sul gruppo. La dica c'è un po' Arunizzano. Vedrai cosa arrivo io. Ti ricordo che bugna a bocca il gatto nei capo di cacciare con i denti. Mio marito... Vabbè, non è cazzo. Ah, è giusto, perché i figli ce l'hanno lì. Però è già lo trovo, prima o poi. Che sono in giro. E ce lo trovo, gli posso un bel presentare. Ma scusa, ma lui non è quello perché lì ci fuori tanto. No, è tu all'altro sono di Zendi. Ah, l'ha già compreso, sì. E chi su mi ha favitato mari, ma non va a Roma a pentirsene. Per carità, va. Che schifo, veramente, va. Beh. Parenti serpenti, lo facciamo noi. Certo, sì. Una signora mi ha detto questa frase, so parlare risanti. Cosa vuoi che ti dica, Natalia? Non sai che vedo sempre le persone, non sono tutti precisi. E meno male, che non sono tutti precisi, se no sarebbe stato un problema. Infatti, io ci piglio la sigaretta, spero un attimo per una sigaretta. E scappa. Natalia! Sono rientrato! È rientrato, signor Salvatore, cava! Sì, caspita! Cava, eh! Oioia! È così! E oioia! E io dai! Cazzo, dice in mezzo! Comunque Natali, questa settimana non si può fare quel lavoro. Bisogna farlo martedì quando migliora, perché adesso le tegole sono bagnate e non fa salirci. No, deve agitare, che si stabilizzeggia il tempo fra. Non va sa che bisogna che asciutti hanno i deuri. No, ci salgo perché non voglio fare danno. Salgo quando asciuga bene, fanno almeno due o tre giornate di sole. Che asciugano bene, allora salgo, se no adesso non ci salgo neanche. Non se ne parla nemmeno, non me ne frega, aspetta, quando migliora salgo e la butto giù. Sì, infatti, e ti è muovita. Però delle mura domestiche. Chi da chi devi piazzare? Riduttore che ce l'ho. E l'ha appunto addossatore. A dove se mi ascolta. E punta verso di me, punta. Quanto ne mezzo cucclati? E da me quando va giù la patente, già lo sai, io ti butto la direttiva dai nobi. Ti faccio biondo, ti faccio, Ah sì, guardi, io non posso piazzarne di queste cose qua, perché sennò da voi siete fuggi tutto. A me mi piace la direttiva, quando prendo la patente, e poi ci metto un TL 922, e poi mi do un controllo. Un vagone mi biglio direttamente, bestanda. Ma va bene, Natali, il TL 922 con la direttiva puntata a torre. A me lo vedi che mi sente meglio? Sì, io lo vedo. Ma c'è la risa mi scappa, vai. Oh, a me non mi si scappa la risa. A me mi faccio direttamente un vagone, mi voto. Con la direttiva. A proposito, tu non sei salito neanche la situazione con il tubo, l'ho visto che è tutto piegato, via. Ma vedi come ne toglierò quel tubo lì, no? Metteci un tubo d'acqua. C'è il tubo d'acqua, c'è, è tutto, c'è coricata, con il vento si è coricata, ma è sfasciato, lì, la staffa ce l'ho qua, ce l'ho, davanti a me. C'è la staffa, c'era, ha tagliato, la staffa ha tagliato. E c'è coricata. E non va a nessun posto così, Rimane ferma, attaccata al rubiratro, però non si muove. E quando salgo, quando fa bel tempo, salgo, gli faccio due buche e gli metto la staffa. Gli metto più, piano piano, da sopra il tetto, tiriamo su e raddrizziamo il tubo. C'è il tubo d'acqua, c'è. Ma sai tu quale staffa conviene? Mettere quelle staffe a muro, quelle grosse, capito? Costano un po' di più, però guarda, se poi ci fatti, mi sa che ci vanno tasselli da 16. Ma tasselli da 16 e tu hai finito di soffrire. Mi piace non guidananzi, due tasselli da 16. Mi piace non guidananzi. Quando è pronto ci metto tutto e poi tiro il tubo da su il tetto e lo dritto e metto tutto dritto, metto. Anche tiranti gli metto, ruggimento, ribongo, tutto quanto ribongo. E la metto a posto. Però ti stavo dicendo, prendermi quelle staffe che sto dicendo io, con tasselli da 16, quelle staffe che sono corte, che vanno fissate, quelle non le muovi più. Ma comprai di quelle staffe da cementare che non servono a nulla. L'ho comprata, l'ho accorciata perché ce ne vuole da 20, no, ma da 15 vuole. E più l'ho modificata anche perché non ci sta. Sono salito su a vedere se ci stava e di quella maniera non ci stava. Allora l'ho modificata. L'ho messa diversamente. E ce l'ho pronta per mettere. C'ho i due tasselli qua. C'è tutto. Ma ciò si buono in fatto le staffe, qual è il problema? Con la saldatrice ci prendono due pezzi di coso, di rettangolare, di ferro buono e si salda, capito? Ci fanno le staffe a misura. Perché quelle staffe che vendono non servono a niente. Io ho comprato quelle staffe, quelle grosse, in natalità di corti, tipo quelle che hai preso tu. Quella grossa c'ho mi fraio, c'ho quella grossa, con il bollone da 17. Ho capito, io ho messo due di quelle e fissati con quei tasselli in mezzo alla tracchita, messo a due, ho dovuto comprare pure una punta. Perché le altre punte si bruciano, non fanno bene. No, già ce li ho le punte buone io, già ce li ho. E come salgo io? L'avevo già messa una lì e me l'ha troncata. Quindi le metto i cosi le. Da 16 ti metto a voglia, i bolloni sono da chiave di 17 a voglia. E qui ci puoi mettere, e vedrai che hai finito di soffrire, ti metti la crociera sopra con i tiranti, doppia crociera e manda via a lungo e fai un lavoro fatto bene, capito? Tutto lì. Riprendi la tariffa. Sì, capo. Stavo guardando roba al computer, stavo guardando. E vi stavo ascoltando. Andagli davanti e mi porto un bel caffè. Sarà faccia mia? Sì, alla faccia tua. Ma dalla macchinetta 5 minuti e me lo faccio. Beh, io invece devo venire a caffettiera. C'era la macchinetta, quella di lunghi addirittura. Ma non ne uso quasi mai, invece mi piace la caffettiera, ma è più forte di me. Caffettiera non ce n'è, capito? Poi mi faccio la crema con la... metto lo zucchero al bicchiere, un goccino di caffè, lo frullo con frullatore, esce un gioiello. Chiara chiara. Sì, puro e anche sano. Zero a tu. Io ti grido. No, anch'io. Oh, a me si è fatta brutta la caffettiera e quindi sto usando la macchinetta, sto usando. Ma me lo fa espresso. Scatta a po' due di stazionarie, cioè, te immagini. Due di stazionarie con 20 watt. Se la metto, lo porto a 20 watt e me la arriva quasi a 6 di stazionarie. Pensa tu che catena, non si fa nulla. Perché come ha piovuto te l'ha fatta umida. Ed è umida, e poi su dei dendidui. No, te lo dico io cos'è, non è affare di piovuta, perché è tutta la metà bene. Il problema è, hanno fatto la cagata sulla carica, che l'ha costruita, perché hanno messo un filo sulla carica e fa schifo. Ma fine, che non ti dico. Come te lo dopo ti rimane in mano. Con la tenna bisogna smontare e rifare il filo dalla carica, perché è troppo sottile. E quindi non tiene il vatto. Bisogna fargli la carica nuova. Con un filo almeno un po' più grosso bisogna farglielo. E ti pone molto grande la carica. Meno male sarà di da Gosu, che li ho già visti io. Ma qua è quella trasparente. Una cosa, va bene, pensate che costava 30 euro al mercato, 35. Non servono a niente, va per carità. Costano poco e non valgono a niente. Ti sto dicendo che non li puoi dare fatti, perché se le dai fatti ti bruci tutto. Capito? Quindi deve uscire con 5 watt per forza, perché sennò due di stazionare quasi 2,5 ti dà sullo strumento. E quindi il problema è causato dalla carica, perché la carica, essendo il filo troppo fine, ti fa questo problema qua, non tiene watt. Lì ci vuole almeno un filo da 1,5 per andare bene con l'antenna, sennò prenderla e buttarla via dalla lunghezza. Infatti, da 1,5 fagli la carica nuova. Se no rimaneva l'antenna riboni. Ma ce l'ho tu l'antenna, la metto, una bella antenna, ce la metterò su. Se no se la parte è proprio buono, non posso fare nulla, è un problema. Questa parte che non vuole salire, perché se fate un'altra così, a parte che non ci salgo io, perché non metti il piede spacchi le tegole, ed è un casino. Già c'è una perdita di acqua da questo che ha piazzato l'antenna TV, già tutto l'antenna, ha messo il tubo e non ha messo la guaina sopra, capito? E quindi l'acqua continua lì, adesso che tocca metterla io la guaina. Si è capitato 2 metri di 40 euro a fare l'antenna TV e non ha fatto nulla. Ho utilizzato un tubo tutto marcio che c'era, ha tolto l'antenna qui che ha piazzato l'antenna, che c'è già entrare lì a 2 metri di 40 euro. Certo, è proprio... ma non si fa di così, certo. Cioè, poi entrare va buono, no? A parte quello, tu hai fatto un'altra stronzata che ti dico. Ha messo l'alimentazione, praticamente, la trasformatore con l'antenna lavora a 12 volt su, il trasformatore lì ha peso, con i fili non ha messo neanche la cosa, come si chiama, la spina femminile, ha legato i fili praticamente, la strada alla spina maschio, per mettere una spina femminile, questo gran stronzo è venuto. Tutto in pressa per Udova e andassini e a essere buliti. Vabbè, ma adesso io quando salgo poi gli metto la spina e la appendo col filo, perché la buttata in terra con la 220 e 220 in altro non andava bene. Se vanno i rubini e tu mi leggi divisione va in terra, ma c'è un mantevazzi di scintilli. Infatti gli ho detto, quanto è che gli ha preso quello? Dice 250 euro la fattura, lo dice non me l'ha fatta in nero. Allora io guardi, adesso io glielo dati un po', perché non voglio fare problemi. Però la prossima volta gli ho detto, quando eseguite lavori sul condominio, io voglio tanto di fattura qua, altrimenti non buttavo neanche 50 lire. Certo, non si fa in nero così, no. Io l'ho fatto in nero, no, non si lavora così, oh vabbè. Va preso 250 euro perché sennò con la fattura sono 500 euro giù. Ma cosa do? Cosa intendi? L'ho fatto io, il premio, vado a fare io il preventivo, gli ho detto che ho fatto tutto. Allora l'antenna costa 30 euro quella larga banda, perché ce ne va una solo di antenna, perché praticamente lavora sulla banda UHF, UHF non lavora più, capito, l'antenna, quindi basta un'antenna larga banda sulla banda dell'UHF. Poi c'era la cosa, la centralina che costava 83 euro, la centralina, questa cos'è, 250 euro, cioè ma ti rendi conto? E poi ho utilizzato anche il tubo vecchio, tutto rugginoso, non ha messo neanche la guaina su, e quando piove l'acqua va a finire lì, capito? Ci deposita tutta una cosa e poi scola su, giù. Cioè, cosa te la voglio? Te la voglio da gozo, da bucaccioni. No, lavori di merda, scusando la frase, perché non ci fanno queste cose. Norma di sicurezza, dov'è la norma di sicurezza? Tu mi prendi due figli da due venti, mi fai un pezzo di latte e mi tiri come in terra, ma stiamo scherzando. Non una scatola lì dove va a mettere. Allora per terra una scatola e mettere tutto attaccato come una scatola attaccata al muro. Allora praticamente nel condominio non c'era neanche il, come si chiama, salvavita. Io l'ho potuto mettere salvavita io, perché non ce n'era. Così uno rimaneva vivo e rimaneva guiminato con la luce del condominio, capito? Cosa che è successo là? Capisci, che sono salito a vedere il lavoro che ha fatto questo grande antennista, cioè sai cosa ha fatto, non rimane in capo, io te lo faccio vedere quando sali. Praticamente ha collegato, ha preso 250 euro per fare l'antenna, questo, ha lasciato il tubo vecchio, che doveva mettere anche il tubo nuovo, tutto il tubo di quelli nuovi, perché non è che ci vuole tutto questo grande tubo, perché c'è il ripetitore vicino qua a Monteoro. E praticamente ha collegato la centralina e i fili della 220, che poi entra dal trasformatore, da 220 viene trasformato a 12. Ma ragazzi, intera con due pezzi di nastro, una parte di cuscino, due pezzi di filo. Ma che bisognava arricchiarlo subito? Capito cosa ha fatto il signore? E poi non ha messo neanche il coso, la guaina sopra da me dove c'era il tubo. Quindi adesso quando piove l'acqua va a finire nel terrazzo di giù. Grazie. L'animale, guarda, ma veramente eri incazzato un ieto. È che non so guare che è giunto a Piazza Sant'Elena, se no dovrebbe rubare a due, a vedere. E anche salvavita ha messo questo stronzo qua. Capito? Io non avevo tutto il corpo. Che disturbavi tu. C'era tutto messo come si deve. Vicciolato da lì va. Ma per carità, lascia perdere, vai. Ha fatto una centralina, che costa a me pare 47 euro, questa centralina, da bucciare. Le centraline buone sono quelli della Tecco, ma mica ti mette una centralina a Tecco che già costa 110 euro, no? E se no è tu cosa vi guadagna? Chissà quanti di nasa a questo imbucciacca, ragazzi. Te lo dico io, ha pagato 30 euro l'antenna a larga banda, più ha pagato 43 euro di centralina, il filo ha lasciato quello che c'era, ha messo solo lo spettrone dell'antenna e il buio ha voluto vecchio, attaccato alla centralina. Cazzo. Bel lavoro, Sì, guarda, un'opera d'arte ha fatto. Quando lo vedi, dici, c'era calzolaio cosa era. Mi sono una vita, gliel'ho dovuto mettere io al condominio, capito? Sono andato, l'ho comprato e l'ho piazzato, perché non ce n'era. Cazzo, si venivano i ghicilli nella controllare, erano i cavoliacci di me. A parte quello, ma poi la dispersione di corrente che c'era. Sì, io lo so. Io non so come si faccia a fare dei lavori così. Scoprire chi ha piccato il fuoco. Guarda, è venuto quello, perché c'era il problema e non chiudeva il portone. L'aprivi e non si richiudeva. Ma cosa c'era? E si era sganciato dalla molla, no, lassù. Vabbè, ha detto, no, mia vabbè, giacciamo a Abdu. E c'è tutto 80 euro per agganciare la molla. Devo buttare 80 euro. Non hanno voluto dire mai Davidù. Cazzo, hanno chiamato a fare antenna e hanno fatto una inerita, vabbè, la sorvegliamo, se no dopo dicono che parlo male. Allora io ti dico una cosa, io gli ho detto, adesso qualunque lavoro che si fa qua nel condominio, voi io l'ho fatto un gaio, e reso conto anno, se non ti devo manco di conta franchi. Infatti, hai capito come funziona Natalino? Che no, io non vado un padrone, no, e tu devi sapere smossa. Capito? Io mago di seguito, come ti fatti addotto. Il problema è quello, dai tu. No, quando gli dai i soldi, ti devi rilasciare tanto di ricevuta a lui, per legge. No, gliel'ha fatto in nero, capito? No, no, non esiste, non esiste, fra. Io lo so, Natalina, non esiste. Non va bene, non è che non esiste, no? Chi è questo, chi non è? E infatti, un cacazzo di rabbini, con nessuno, se non sai che ti l'ha fatto. Non lo so chi l'ha fatto, no, il capitano ne ha si è avviato, capito? Ha trovato tutto pronto, ha trovato un'antenna, ha avuto la lampadina, ha avuto la centralina, e si è avviato 250 euro. E non è meglio che viene pagato da te, a Roma con un travaglio era stato fatto come ti si tocca. Anch'io non avevo bisogno manco di amplificatore, anche per un ripetitore a voci. Ma dimmi tu, solo la centralina va a distribuire le utenze, no? Ci vuole, basta. La centralina per distribuire il segnale per tutti gli inquilini che ci sono, se no è un casino. Ci sono dei buoni di antenne. Chissà vivo, e no, ti ho già detto che vivo chissà. Se distribuire le utenze, no? Perché poi mi chiama quella di giù l'altro giorno, mi ha detto non si vede la televisione, e poi lo spinotto della Duca in massa la carta col polo positivo, col polo caldo, lo si sta un altro, e dice mi ha fatto bisso, però doveva essere si è collegato, ma cosa, se mancava la vita, lo sai cosa ha fatto, direttato l'ufficio a pressione e la chiedura a vita. Fra, io mi devo lasciare perché sono già le 7:10, da. Vi ascolto. Se no chi c'è mi rompe di cazzo. Vabbè, là, ci sentiamo o più tardi se ci siete, oppure domani. Ciao Natali, dai, buon carica, buon tutto, e ce la riascolta. Vai tu. Ci sentiamo Natali, buona carica. Ok, alle prossime. Ciao Natali. Capito calottone, non è la questione. Ciao mia Memi. Mia Gianni, mi. Andiamo bene, andiamo fra, e purtroppo gente tutti così veniamo bene. Non sono Gianni. T'ho compreso che non eri Gianni. Ma io te lo assomigli a Naedo. Non fate il nome di Dio in vano. La diritto io, questa era che vera. Sì, ma che mi sono andato due, io cazzo sono entrato a 10. Crumini, cazzo. Vabbè là, ci sentiamo più tardi se ci siete. Ciao Tatalino. Ciao Tony. Ciao Natali, buona carica. Ciao, ciao, ciao Franco, Tore, eventuale ascoltori. Ciao Tony, gada gada. Ciao Gianni, buonasera, ben entrati. Ma cosa ci sono? Fulmini, ogni tanto sento la scarica. Sì, sicuramente sì. Tutti alla parte tua sono, perché da me non stanno più entrando. Ci sono avviati. Ciao Gianni, ciao Tonino e tutti gli ascoltoni che sono intorno. C'è il sole? Senta, mi controllo un caffè prima di lascia, via. Ti prendo subito. Aia. Tutti da te stanno venendo già. Cosa? I fulmini, tutti da te stanno venendo. E che ne so? Vabbè, la seconda volta sento scariche, ma deve essere roba nell'atmosfera. Oh già, ho preso il sorbetto al caffè, quanto è buono. Cosa hai preso? Il cornetto al caffè? Il sorbetto al caffè. Già lo so che è buono, sembra un cappuccino di... Come metti il latte col caffè in frigo, se no ti prendi... fior di latte e te lo metti nel caffè, non c'è tanto è buono. Ehi vabbè, questo è però cremoso, ho preso un bicchierino piccolino di plastica, l'ho riempito che è buono. Ma glicemia, oi, 220. No, 190. non dammi i disegni, eh? Gianni, non dammi i disegni. Poca roba. Quanto siete monelli. Mica Gianni ce l'ha sempre 3,50 mi. Io non riesco più mangiando queste cose. No, no, con un asso. No, davvero. No, gelati non ne ho più comprati. Non mi ha sentato anche la tua giornata a comprare. Tu sei recuperato già fame, mezzo di mare. Io ho gelati e mangio uno alla settimana, questo qua. E vabbè, compro le baschette quando me le compro. Se mi compro i gelati me ne mangio tutti. Poi? È così invece, Tore. Lui ce la compra la baschetta. Se ne mangia a mezzo chilo la buccia o a chilo la buccia. C'è chi può farlo. E non gli sale, e c'è chi gli sale. Ecco cos'è. Purtroppo io ne sono assegno, anche ne mangio tutti i dì. Tu li mangi gelati? No. Tutti i giorni, la notte. Me la fanno salire? Poca roba me la fanno salire. Sare mio, a pranzo ce l'avevo, prima di pranzo ce l'avevo a 102, ce l'avevo. Quindi glielo devo dare così, prima di pranzo, prima di colazione e prima di cena, gli devo dare, una volta alla settimana. Io ce l'avevo a 100, ce l'avevo più bassa della tua, però non ho mangiato il gelato, il fatto è quello. Io ho già mangiato la mia salita, poco e nulla mia salita, quindi, anche se no, quando non ne mangio, mi rimane 88, me la misura e mi rimane 88. Allora, se io non ne mangio, ce l'ho 90, 100. Se ne mangio uno, 120, 130. Se ne mangio 5, mi sale 190. Se ne mangiato 5, quindi. Ti sei scavato da solo. No, ma non ce l'ho, non ce l'ho trovato. Ho mangiato poco fa, 145. Però gelato non te ne mangio. Mi sto preparando un bel sugo che è il ragù che mi faccio i ravioli. Io se cavo dalla scatola a volta, non la mollo. Me ne mangio uno dopo l'altro, lui, lascia perdere. Mi sono goloso. Io lo dico tranquillamente, io confesso, non nascondo. Ma fa male. Non lo so che fa male, infatti non è compro per quello, perché quando c'è io li mangio. Hai capito, no, dico mangia tutto. No, io li compro perché ci sono i miei nipoti, e quindi se ce ne è tutta una. La notte non mangio. Oh già, ma stai usando quello? No, sto usando Ruiz. Ah, capito. Quella questione, fatto lei. Che cosa? Quella questione. Quale? L'alimentatore. Quella? L'alimentatore. Aggiustato. E chi te l'ha aggiustato? Un amico mio che fa la radiotecnico. E me cosa aveva? Non glielo manco chiesto, ma ha preso poco, però 20 euro mi ha preso. C'è qualche dito che è cazzato. Cosa? Qualche dito bruciato. No, qualche fesseria, dai. Qualche fesseria. Vabbè. Adesso quello lì, se mi gira le scatole, me lo prendo e me ne compro uno nuovo. Ma l'avventatore? È aggiustato sempre, magari si faccia d'ora, boh. Io ho quello armato manuale, grazie a Dio, è una bomba. E dalla me quello lì, Noni, noni, che mi deve funzionare il balluccio lì. Cavagata. Attenzione, Franco, ne pensa questo caffè. Franco, calfuliti, preso là. Almeno io me ne ho comprato a 55 ampere. Quanto? 55 ampere. E quanto l'ha pagato? Molto. 146 euro. Io quel prezzo lì lo prendo da 50 ampere. L'ho visto già su Amazon. C'è 50 ampere con strumenti. Anche io mi raggio bigliato, con gli strumenti e tutto, non c'è tanta cosa, c'è la ventola dietro, gli attacchi dietro, davanti, l'accendisigari. E non pago spese di spedizione io. Manco io. Quanto costa 50 ampere? Sono 150, Tony. Vabbè, ho capito di colpo. Perché ho intenzione di farmi un bel mix. Un bel? Mix. Non si è capito cosa dire. Un bel mix, mi. Ah. C'è propagazione, propagation. Appagata. Vabbè, faccio la spazzolata. Ok. Non così, ciao Gianni, ciao Tore. Eventualmente Franco, non lo dirà. Ciao, ciao. Ciao, Tony. Ci risentiamo, alle prossime, ok. Ciao, Tony, ciao, ci sentiamo, dai. Vai, vai, di più. Ma mi sa che non ce n'è mica propagazione. Ce l'ho già detto, non qua. Ci ha pagato, fammi sapere, dai. Perché la propagazione volete? Ieri sera ci siamo divertiti un po', tutta l'Italia ci siamo fatti. Ieri sera c'era anch'io. C'era anch'io ascoltandovi. Ah, ascoltarlo, perché io non mi ricordo che ci fossi. Ci siamo fatti tutta l'Italia ieri sera. Napoli, tutto di più. Palermo, Vera. Cosu, Paolo di Napoli. Ce n'erano parecchi. Calabria. Ho già acquistato, vinto in via. Ogni tanto entravo, però. A voi mi si è accumulato. Bisogna farlo ogni tanto, ma. Ma ascolto su altri canali più alti. Manda bene. Avanti a chi spetta. Siamo che siamo io e tu. E tu Masa. Proprio così. Più di due non siamo. Mamma mia. Vuoi un po'? No, no, mi basta che ce li faccio io. Me ogni tanto mi do gli nocci. Ogni tanto. Ma questo tempo qua è un poco faticato, un poco freddo. Ma io ce l'ho già da un po'. Oia. In tutto il corpo dopo, non è solo in un punto, da tutti in basso. No, io a me mi... ogni tanto mi metto e faccio pedalo a muovere gli occhi a Romanco. Devo fare più ginnastica, dai. Stamattina mi devo mettere in testa di fare ginnastica, perché sennò mi riduco a un uncino. Io a qualsiasi ora mi bongo un'oretta e mi rafforzo. Almeno così i dolori ti passano. Infatti. E già ci sono le tecniche per la schiena, c'è una ginnastica, per il collo c'è un'altra, solo che l'unica ginnastica, sai quale, andare da un fisiatra e farti fare quelle mosse che fanno loro, ti va a croccare tutti i russi. Sì, la seconda la savuta, già me l'ha fatta, ma a dopo di due non riusciamo ancora a star dritto. Anche ti basta in un momento, ma non da poi che non ti torna, non riesci a muovere. E allora cosa bisogna fare? La salvazione, andiamo. Bisogna andare in palestra ogni giorno e vedrai che i dolori non ti vengono. E come fa a fare palestra ogni giorno, per carità? No, non ne voglio di questi impegni, per carità. Io ho già troppe cose da fare, no. Si impegni di moga nel palestra. Vabbè, un'oretta. Se vuole un'oretta, giù di un po' garetto, ne ha da voi già a posto. Ci sono le cure, ma la sorte, ci sono le iniezioni che le fanno bene, quelle di voltare nei muscoli, quelle di adesso vado all'opera e me le faccio ordinare, me le faccio. Non è possibile. Sì, ma è nesce tutto un punto, un nesce. Cazzo. Io ho già fatto cannelli. 8 mesi va, e va via tutto il buco addosso, tutto un punto. E vabbè, ma noi non poi ti passa, una volta che ne fai una scatola ti passa tutto. Sì, cioè, mi sono passati, non mi sono più giunti, se ne vanno non mi sono giunti. Però, un buco addosso era il mio che non riesce a rimanere posato. Ma il cambiamento di tempo anche che lo fai, hai ragione tu. Quando c'è freddo, specie chi soffre di artrosi, ui. Quando c'è vento a me me lo fa, nel collo me lo fa. Artrosi cervicale, purtroppo chi si vedrai e te lo tieni. Mi ha detto, lo dottore mi ha detto, quello c'ha e se lo tiene. Sino a quando se ne va. io non che nemmeno le cose, certo, hai compreso, quando c'è vento me lo fa. Poi che ti avendo dottori, qualche cosa, qualche rimedio te lo deve dare, no, se c'è dolore lì. Vabbè che al mio ogni volta che gliene parlo solvo ai cesi e quello lì sono le artrosi, se sono le artrosi però che rimedio vi sarà, no? A me l'ha detto sì, aspetta che ti ordino queste qua, agitano, non lasci perdere, me lo tengo con sicurezza e andrà da nasce, certo, ogni volta mi devo bugnire, mi devo. Io già ho operato due gambe, mi basta così, non voglio farne altre operazioni, mi vado le mani ginocchi, mi vado le mani sopra le scapole, dietro nel collo, poi a sabbilire. Infatti, conviene avere i dolori un pochettino, però quando fa bel tempo, caldo, d'estate non ce li hai solo d'inverno quando viene un freddo. E allora? Per esempio oggi adesso c'è un po' di umidità, a me mi segue, io sento il braccio, che me lo sento mi viene il dolore al braccio. Sì, Fuzzi, ci sono quei zenni, la mattina mi quando mi alzo, prima un po' di busa, anche se no non riesco a bussare i piedi. No, io la mattina che me ne alzo, vado in mangiare cosa, poi se ci conete con la passeggiata, a manco di mezzo chilometro, che non rientro, son tranquillo, non c'ho nessun dolore. Mi poso a fare colazione, brum, e seguo peggio che mai. E quando ti curi chi è che ti vengono? Lo so, anche a me fa così, mi passano quando cammino. Mi passano e poi, cioè, si alleggeriscono, diciamo, mi passano, una parola grande, si alleggeriscono i dolori. Poi, diciamo che durante la giornata non li senti più iniziato, ma se ti sdrai poco, L'altro giorno mi sono messo a fare un lavoro qua, sotto il lavandino, mentre mi sono cubigiato, hanno appeso a me e non riesci a drizzarmi, sono rimasto bigiato ma un poco. E anche io l'altro giorno stavo mettendo, sistemando tutte le cose, i fili delle radio, pulendo, facendo, sono andato a bisamini, ero un uncino. Infatti secondo me quando fa bel tempo a salire sul tetto ti devi bigiare sotto, far mettere a attaccare la staffa e tutto quanto, secondo me il gioco. Vabbè, io ti lascio, dai, che devo andare, ci sentiamo, dai, buona serata e grazie per il questo. Ci risentiamo. Ciao già, stammi bene, alle prossime, ok. Altrettanto, ciao.